し込めた一人の男が今日も行く。真面目に遊ばぬ奴らには体で覚えさせるぞ。背が高しろ、背が高しろ、背が高しろ。テニスやカラオケ、ナンパにクラブ、他にすることあるだろうが、触れなきゃ遊べぬ奴らには心に問いかけるぞ。背が高しろ、背が高しろ、背が高しろ。 Tornati su Jazz Radio Cast per la terza puntata del 2013. Quali attenti ascoltatori avrete sicuramente notato che abbiamo saltato la puntata di aprile. Non vi preoccupate però, che in casa Sega non è successo praticamente nulla. La traccia di apertura riassume perfettamente questi primi mesi dell'anno. Anarchy Reigns di Platinum, la cui pubblicazione tra l'altro era stata rinviata dall'anno scorso per qualche misterioso motivo, e poi il nulla, anzi peggio che il nulla. Nemmeno il tempo di finire di registrare la scorsa puntata, ancora esaltato dal ritorno di Segata Sanshiro, come una doccia fredda è arrivato l'annuncio di Phantasy Star Online 2 rinviato a data da destinarsi. Bel modo di festeggiare i 25 anni di Phantasy Star, no? Il prossimo E3 rimane forse l'ultima possibilità di vedere arrivare PSO2 da noi, ma nel frattempo non trattenete il respiro. Corsia di sorpasso, posto che storicamente appartiene per diritto a Sega, sempre col piede sull'acceleratore, avanti alla velocità del suono, con il bisogno fisiologico di offrire sempre qualcosa di nuovo e fuori dagli schemi. È proprio quella la Sega che voglio omaggiare in questa puntata. Per farlo ho scelto di parlarvi di Gun Valkyrie, shooter in terza persona sviluppato da Smilebit, gli stessi che hanno creato il gioco di cui questo podcast porta orgogliosamente il nome. Direi che possiamo cominciare. Get ready to enjoy the essence of my exhaust pipe, brother. Let's go! However, we cannot be sure what the doctor has planned for us, so keep your eyes open out there. We all know what he did to the colonists. Please proceed with caution. There's no telling what that megalomaniac is thinking. Lieutenant, you're his daughter, and not even you understand him. How are we supposed to figure him out? Right. In the end, we always come to the same conclusion. Gun Valkyrie esce nel 2002 dopo essere stato dirottato dal Dreamcast all'Xbox, console che almeno inizialmente sembrava destinata a raccogliere l'eredità lasciata dal Dreamcast. Una decina di anni più tardi dopo aver visto la presentazione di Xbox One, non ne sono più tanto convinto. Ambientato in una realtà alternativa agli inizi del XX secolo, Gambalkairi si apre con la scomparsa del dottor Applegate. Dopo aver di fatto rivoluzionato la tecnologia e l'evoluzione scientifica della Terra, Apple ha pensato bene di rimuovere la testa della figlia dal corpo e scomparire con esso, dopo aver trasformato in insetti mostruosi gli abitanti di Tirnanog, colonia spaziale dell'impero britannico. La ricerca del dottore inizierà quindi da qui. Tirnanog è però un pianeta decisamente ostile. Su tutta la sua superficie non c'è traccia di alcun muretto dietro il quale nascondersi, e gli edifici dei coloni fanno delle barriere architettoniche un motivo di vanto. Inoltre, forse a causa della particolare atmosfera, l'energia non si recupera semplicemente stando fermi. Il classico avventuriero funambolo dalla battuta sempre pronta non è quindi adatto a questa missione. Per risolvere la crisi di Tirnanog, l'esercito imperiale ha quindi deciso di inviare una squadra Gambalkairi, composta da Kelly e Saburota, individui dotati di capacità sovraumane come risultato dell'influenza del passaggio della cometa di Halley del 1835, coordinati dal tenente Meridian Poe, figlia dello stesso Applegate. Dotati delle tute Gear Skin, i membri di Gambalkairi sono dotati di un impressionante potenziale offensivo e capaci di incredibile acrobazia aerea, sempre a patto che il giocatore ai comandi ne sia all'altezza. Per descrivere Gambalkairi mi piace fare riferimento ad un livello in particolare, Valle 3. 30 minuti di tempo per eliminare tutti i Frecky Aims, ovvero insetti che generano gli altri insetti sulla mappa. Generatori di nemici, insomma. Se vi sembrano tanti, tenete presente che al primo tentativo riuscito ne ho avanzati forse un paio. La prima impressione che dà Valle 3 è quella di essere finiti in uno di quei film in cui i protagonisti finiscono miniaturizzati a rischiare la vita nel giardino di casa. Tutto sembra gigantesco ed irraggiungibile, mentre vi aggirate saltellando goffamente per la valle, tra piattaforme troppo in alto, troppo lontane l'una dall'altra, dislivelli che paiono invalicabili e nemici troppo nemici. Ma è solo una questione di approcciare le cose nel modo giusto. Valle 3 traccia una linea netta di demarcazione tra chi, dopo qualche livello introduttivo, vuole davvero imparare a giocare a Gambalkairi e il giocatore di Halo capitato qui per caso. Yeah. fornire la chiave di lettura di Gan Valkyrie ci viene in aiuto l'Attract Mode. Bastano pochi secondi di demo giocati da mani esperte per realizzare come Gan Valkyrie vada affrontato. Gli scatti realizzabili tramite la pressione delle leve analogiche non sono solo una gimmick o una mossa fra le tante, ma sono proprio il fulcro del sistema di gioco. Gan Valkyrie va affrontato rimanendo costantemente in volo, concatenando gli scatti e restando continuamente in movimento. Non che aver preso coscienza di come il gioco funzioni renda le cose più facili. Rimanere in volo e contemporaneamente fare fuoco sugli sciami nemici richiede sforzi prolungati di concentrazione e coordinazione, velocità di pensiero e di esecuzione. Rimanere fermi in Gan Valkyrie non è un'opzione. Un momento di indecisione e il personaggio piomberà al suolo come una pera matura. Gli insetti hanno già apparecchiato la tavola e non aspettano altro. Se non ce la fate, non date la colpa al sistema di controllo che sfacciato pretende l'utilizzo di più di due dita contemporaneamente. Piuttosto cercate la causa all'esterno di Gan Valkyrie. Potrebbe essere narcolessia provocata da lunghe gite guidate in cui sparare ogni tanto a sagome semoventi, oppure un eccesso di autostima dovuto al bombardamento di gratificazione ad ogni passo, magari per essere riusciti ad azzeccare quattro salti di fila. Qualunque sia il vostro problema, Gan Valkyrie può essere la cura. A voi la scelta se essere dei Meat Boy oppure prescelti di Alley. Siamo giunti alla conclusione di questa puntata su Gan Valkyrie. Non mi rimane che darvi appuntamento alla... Scusate un attimo. Una chiamata dalla regia. Sì, dimmi. Un nuovo Sonic. No, ascolta, ti ho detto di non disturbarmi per le notizie sui giochi per cellulari. Come? Su Wii U? Vabbè, dai. Già. Ok, grazie. Incredibile, una notizia bomba proprio in chiusura. È di pochi giorni fa l'annuncio di Sonic Lost World, un nuovo gioco in esclusiva per Wii U e 3DS. Le prime immagini mostrano Sonic e Tails avvicinarsi a bordo del Tornado a un pianeta composto da esagoni di terreno. Ancora non sappiamo cosa aspettarci da questo titolo, ma una cosa è certa, sarà un piacere tornare ancora una volta nel mondo di Sonic, nel suo mondo. E allora vi saluto con Eastward, dalla colonna sonora di Sonic the Hedgehog, meglio conosciuto come Sonic 2006. Alla prossima! This world. Jet Set Radio.